Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Arganti e il traghettatore, bentrovati. Partiamo subito annunciandovi che lunedì e martedì a Torino, al Politecnico di Torino, Enea, Regione Piemonte, promuovono due giornate di studio sulle biomasse ad uso energetico, un'opportunità per lo sviluppo sostenibile del territorio. L'obiettivo di queste due giornate è dare agli operatori del settore un'opportunità di approfondimento e di confronto sulle tematiche relative alla produzione di energia da biomasse. Parliamo di applicazioni di servizio usate attraverso gli smartphone. In questo caso parliamo di TataToo. Siamo con Francesca Macri, ideatrice di TataToo. Francesca, buongiorno. Buongiorno, grazie. Non occorre, come dire, sbizzarrirsi in fantasia per capire che TataToo è un sistema di servizio per le famiglie, immaginiamo, fornite di bambini. È così? Esattamente, è per le famiglie fornite di bambini, soprattutto per le mamme, ma utilizzabile anche dalle altre donne che comunque fanno fatica a conciliare il lavoro con la vita familiare. Questa applicazione si trova ovviamente su tutti gli smartphone di qualsiasi genere e natura, di qualsiasi provider, così? Questa applicazione sarà disponibile da settembre, sì, per tutti gli smartphone e tablet. In questo momento noi stiamo andando avanti con lo sviluppo e concludendo una fase di beta test. Ecco, in particolare, tanto per spiegare come funziona, cliccando, aprendo questa applicazione ottengo delle informazioni dei servizi. Quali esattamente e rispetto a quale territorio? Ognuno trova informazioni sul proprio territorio. L'obiettivo è quello di raggiungere i principali paesi europei. Per il momento sarà disponibile in Italia nelle principali città. Quali informazioni trovo? Trovo informazioni che sono evidentemente relative alla vita quotidiana, quindi dove trovare ad esempio un ristorante family friendly, dove trovare invece un posto dove cambiare il bambino, dove trovare una scuola di musica, dove avere magari degli sconti. E questa applicazione serve anche a organizzare il mio tempo nella maniera più proficua possibile. Qual è l'azienda che ha prodotto la tua invenzione? Come si chiama? Allora, no, io sono diventata, grazie ai dei meravigliosi advisor che sono Brains e Réseau Entreprendre, socia di un'azienda che si chiama Fargo Film, che si occupa anche di applicazioni per bambini. Ce ne sono altre oltre a questa TataToo, quindi, no? Ci sono altre applicazioni che hanno la stessa caratteristica di servizio di orientamento sul territorio. Esattamente. Grazie ai network in cui sono inserita, il modello di business è diventato molto più ampio, perché io sono partita ideando TataToo e poi abbiamo deciso di diversificare le applicazioni e fornire delle applicazioni analoghe anche su target differenti, quindi per gli sportivi e per i proprietari di animali. E come si chiamano queste due applicazioni? Si chiamano SportToo e ZooToo. Anche qui la fantasia non la fa da padrona, vogliamo fare così, almeno in maniera molto semplice. Si arriva subito all'obiettivo. Anche queste saranno disponibili a settembre? Queste saranno disponibili successivamente. Vogliamo testare un prodotto, renderlo veramente semplice da usare, estremamente fruibile, per poi sviluppare gli altri. Sicuramente però i tempi saranno più ridotti rispetto alla prima release. Giusto per, come dire, per non lasciare niente di intentato per chi non si intende di tecnologie, il telefonino, grazie alla SIM, consente di collocare nello spazio, quindi nelle strade della città, la persona e di conseguenza collegare questa persona alle altre informazioni in possesso sulla dislocazione di servizi e di attività commerciali. Funziona così? Perfettamente, esattamente così, ed è molto importante, soprattutto immagino per le mamme, avere il parere anche di altre mamme che utilizzano quei servizi che possono servire a me. Bene, in bocca al lupo per settembre. Allora, ormai c'è agosto di mezzo, quindi siamo agli esordi di TataToo. Grazie a Francesca Macri. Grazie molte, buona giornata. Chiudiamo con una notizia che riguarda una ricerca di Microsoft Italia. Il 64% delle aziende ritiene che offrire opportunità di lavoro flessibile sia importante per attrarre e fidelizzare i migliori talenti. Il 71% dei dirigenti pensa che il lavoro flessibile addirittura aumenta la produttività dei dipendenti del 47%. È un altro segno di un cambiamento profondo che sta avvenendo negli stili di vita e di lavoro anche in Italia e anche nelle grandi aziende multinazionali. È tutto per la puntata di oggi. Vi ricordo di cliccare su ferrybot-radio24 mi piace su Facebook. Grazie ad Anita Panizza in redazione e a Pietro Lacorte in regia. Alla prossima. We'll be right back.